Ciao, io sono Andrea e sono dottorando a Milano, anche se da quando hanno chiuso le università, fine febbraio, sono tornato a casa in Trentino, dove la situazione non è drammatica come nella Lombardia e nel Veneto. Tuttavia, anche qui hanno deciso di chiudere i miei luoghi di lavoro, che sono le biblioteche, l'università e via dicendo. Devo dire che faccio molta, molta fatica a portare avanti il mio lavoro di ricerca da casa per questioni strettamente personali, non logistiche, ma possiamo dire che mi ritengo fortunato per il fatto che non ho immediati problemi di reddito, visto che ho una borsa che continua a venire erogata, anche se c'è stato comunque paradossalmente consigliato di sospendere il dottorato e quindi anche la borsa nel periodo dell'emergenza. Vi leggerò il primo capitolo della Peste di Camus, perché mi pare molto adatto alla situazione, la cui conclusione nella mia immaginazione dovrebbe dare l'inizio non tanto al libro quanto alla nostra situazione corrente. I fatti si svolgono negli anni 40, in un periodo non molto più precisato di così, in una cittadina algerina sotto la colonia francese. E si svolgono, questi primi momenti perlomeno, si svolgono in una primavera. E i parallelismi credo che siano abbastanza evidenti e per questo mi pareva interessante proporre questa lettura. Buon ascolto. La peste di Albert Camus. I singolari avvenimenti descritti in questa cronaca si sono prodotti nel 1940 a Orano. Era opinione diffusa che capitassero nel luogo sbagliato, trattandosi di avvenimenti un po' fuori dal comune. E Orano è invece, a prima vista, un posto comunissimo, una semplice prefettura francese della costa algerina. La città ha onor del vero, è brutta. Il suo aspetto tranquillo impedisce che si colga subito ciò che la rende diversa da tante altre città commerciali a qualsiasi latitudine. Come fare a immaginare, per esempio, una città senza piccioni, senza alberi e senza giardini, dove non si incontrano né battiti d'ali né frusci di foglie? Un luogo neutro, insomma. Qui il passaggio delle stagioni si legge soltanto nel cielo. La primavera si annuncia esclusivamente dalla qualità dell'aria o dalle ceste di fiori che i venditori portano dai sobborghi. È una primavera che si vende al mercato. Durante l'estate il sole incendia le case troppo asciutte e copre i muri di una cenere grigia. Allora si può vivere solamente all'ombra delle imposte chiuse. In autunno, invece, è un diluvio di fango. Le belle giornate arrivano solo d'inverno. Un modo facile per conoscere una città è scoprire come vi si lavora, come si ama e come si muore. A Orano, per effetto forse del clima, tutto questo si fa allo stesso modo, con la medesima aria frenetica e assente. In definitiva, ci si annoia e ci si sforza di prendere delle abitudini. I nostri concittadini lavorano molto, ma sempre per arricchirsi. Si dedicano principalmente al commercio e pensano soprattutto, come dicono loro, a fare affari. Va da sé che apprezzano anche i piaceri semplici, amano le donne, il cinema e andare al mare, ma molto ragionevolmente riservano questi svaghi al sabato sera e alla domenica, mentre negli altri giorni della settimana cercano di guadagnare molto denaro. Quando la sera escono dagli uffici, si ritrovano alla solita ora nei caffè, passeggiano lungo lo stesso boulevard oppure si mettono al balcone. I desideri dei più giovani sono violenti e brevi, mentre i vizi dei più vecchi si limitano alla frequentazione delle bocciofile, delle feste del dopolavoro e dei circoli, dove tentano la fortuna puntando grosso alle carte. Si dirà forse che questo non è tipico soltanto della nostra città e che in fondo tutti i nostri contemporanei sono così. Forse oggi non c'è niente di più naturale che vedere persone che lavorano dal mattino alla sera e decidono di poi di perdere alle carte, al caffè e in chiacchiere il tempo che resta loro per vivere. Ma ci sono città e paesi dove ogni tanto le persone hanno l'intuizione di qualcos'altro. Di solito questo non cambia le loro vite. Ma l'intuizione c'è stata ed è già qualcosa. A quanto pare invece Orano è una città priva di intuizioni, cioè una città assolutamente moderna. Non è quindi necessario precisare il modo in cui da noi le persone si amano. Gli uomini e le donne si divorano in fretta nel cosiddetto atto d'amore, oppure si impegnano in una lunga abitudine a due. Fra tali estremi, spesso, non c'è via di mezzo. A Urano come altrove, in mancanza di tempo e di riflessione, si è costretti ad amarsi senza saperlo. Più originale nella nostra città è la difficoltà che si può incontrare nel morire. Difficoltà, peraltro, non è la parola giusta e sarebbe più esatto parlare di scomodità. Essere malati non è mai piacevole, ma ci sono città e paesi che nella malattia ti sostengono, dove in un certo senso puoi lasciarti andare. Un malato va da sé, ha bisogno di tranquillità, vuole qualcosa a cui appoggiarsi, ma a Urano gli eccessi del clima, l'importanza degli affari che si trattano, la banalità del luogo, la rapidità del crepuscolo e la qualità dei piaceri richiedono una salute di ferro. Qui un malato si sente davvero solo. Si pensi allora a chi sta per morire, intrappolato fra centinaia di muri crepitanti di calore, mentre nello stesso momento al telefono o nei caffè un'intera popolazione parla di cambiali, di polizze di carico, di sconti. Si capirà quel che può esservi di scomodo nella morte, anche moderna, quando sopraggiunge in un luogo secco. Queste poche indicazioni sono forse sufficienti a dare un'idea della nostra città. Peraltro, è inutile fare le cose più grandi di quello che sono. Quel che occorreva sottolineare era l'aspetto insignificante della città e della vita. Se però si hanno delle abitudini, le giornate trascorrono senza problemi. E dal momento che la nostra città incoraggia per l'appunto le abitudini, possiamo dire che ogni cosa va per il meglio. Da questo punto di vista, certo, la vita non è un granché appassionante, almeno però non conosciamo il disordine. E i nostri concittadini, schietti, simpatici e attivi, hanno sempre suscitato una certa stima nei forestieri di passaggio. Questo luogo così pittoresco, privo di vegetazione, privo di anima, risulta a conti fatti riposante e alla fine ci si addormenta. Va però detto che la città è inserita in un paesaggio unico, al centro di un altopiano nudo circondato da colline luminose, di fronte a una baia dal disegno perfetto. Dispiace soltanto che sia sorta volgendo le spalle alla baia e che sia quindi impossibile vedere il mare, che bisogna sempre andare a cercare. A questo punto si converrà che nulla poteva far prevedere ai nostri concittadini gli incidenti che si produssero nella primavera di quell'anno e che furono, lo capimmo in seguito, come i primi segnali della serie di gravi fatti di cui intendiamo fare la cronaca. Tali avvenimenti sembreranno naturalissimi a qualcuno e a qualcun altro invece inverosimili. Ma, dopo tutto, un cronista non può tener conto di queste contraddizioni. A lui spetta solo dire: è successo questo, quando sa che in effetti questo è successo. Ha coinvolto la vita di un'intera popolazione e ci sono quindi migliaia di testimoni in grado di valutare nel loro cuore la verità di quanto lui dice. Del resto, il narratore, che a tempo debito conosceremo, non avrebbe alcun titolo per affrontare una simile impresa se il caso non gli avesse permesso di raccogliere un certo numero di testimonianze, se le circostanze non l'avessero coinvolto in tutto ciò che intende riferire. Questo soltanto lo autorizza a fare opera di storico. Va da sé che uno storico, seppur dilettante, possiede sempre dei documenti. Anche il narratore di questa storia ha i propri. La sua testimonianza, innanzitutto, quindi quella degli altri, potendo lui, in virtù della sua funzione, raccogliere le confidenze di tutti i personaggi di questa cronaca, nonché i testi in cui a un certo momento si imbatté. È sua intenzione attingervi quando lo riterrà opportuno e usarli a propria discrezione. È inoltre sua intenzione. Ma forse è giunto il momento di mettere da parte i commenti e le cautele linguistiche per venire al racconto vero e proprio. La descrizione delle prime giornate richiede una certa minuziosità.